Dio! Scusa, Salve. Buonasera. Ciao. Ti do del tu? Dammi un segno, dai, poi io faccio quello che preferisci, Vabbè, ti do del tu. Tanto nell'ambiente funziona così, no? Cioè, anche nel mondo dello spettacolo. Però io volevo dire nel mondo interiore, no? Ti pare? Visto che non mi dai nessun segno né alcuna risposta. E forse lo fai solo a fin di bene, sì, perché sennò a me mi prenderebbe un colpo, no? Allora, comunque, secondo me, l'ambito in cui ci muoviamo io e te è quello interiore, no? Appunto. Io volevo solo sapere una cosa. Una domanda un po' inutile, sì. Anche un po' ridicola, sì. Un po' inutile perché figurati se mi rispondi. Un po' ridicola perché figurati se mi rispondi. Appunto. E poi tanto parlare d'amore è sempre ridicolo. Sì, è sempre ridicolo da queste parti, sì. Da te forse no. No, anzi no. Da te immagino che è quasi all'ordine del giorno, Quanto amore abbiamo prodotto oggi? E giù tutti i tuoi contabili a fare calcoli, conti, statistiche. Quei gradini laggiù che fanno? Che fanno ancora che si lamentano? Ma acchiappatevi quello che avanza quassù alla Divina Caritas, tanto pezzenti siete e pezzenti rimarrete. Anche se vi accattate le nostre briciole, che poi briciole sono per noi, per voi sono montagne incandescenti d'amore allo stato puro che arrivano da quassù, no? Niente, tutti depressi, tutti stressati, tutti affannati, con quegli occhietti da triglia a guardare quassù, a chiedere un po' d'amore, un po' d'amore. Ma ve l'abbiamo dato, ve l'abbiamo dato. Niente, decoccio. È certo, perché noi qui l'amore non lo sappiamo distinguere e quello che c'è se ne va perso. Qui l'amore è una ricorrenza, da tutti patita, innamorati e non, tutti stressati e paonazzi nello sforzo di dimostrarselo l'amore, di trovare il tempo per l'amore o di trovarlo in tempo l'amore. Oppure no, l'amore è qualcosa di concreto che si vuole fare, concludere, consumare, trombare, insomma. Oppure no, si aspetta il principe azzurro. O la principessa sul pisello, ma con grande dignità, con dignità e sobrietà, perché l'amore è importante, ma non è vitale, certo, anzi, io sto bene da sola, sto proprio bene da sola, anzi, a dirla tutta, io non ci credo all'amore, anzi, proprio niente, ma senza l'amore non sarei nulla, capisci Dio, capisci? E non lo chiamo, no? Non lo chiamo, no. Se vuole mi chiama lui. E perché? Perché così capisco se lui mi ama. E lui come lo capisce? Lui come lo capisce che tu lo ami? Cretina! Che poi si dà sempre per scontato che lui parli di lei e lei parli lui, quando invece l'omosessualità è all'ordine del giorno pure nelle fiction in prima serata, porco cazzo, che poi solo l'omosessualità maschile è sdoganata apparentemente, quella femminile no, quella è tabù, almeno che non serve come porno preliminare per far eccitare i maschioni, e poi tutta l'omosessualità è ancora tabù, però adesso pare che faccia audience, allora lontana dietro un bello schermo che ci separa e casta, senza baci, senza toccatini, allora non solo se ne può parlare, se ne deve parlare, soprattutto se il gay di turno è uno normalissimo. Allora tutti a dire, ma non è che a quello gli piacciono quelli del suo stesso sesso, Oppure no, è una frocia impazzita, tanto sensibile, un po' sfigato e cretino, Ma poi chi se ne frega, tanto la televisione te la sei inventata tu, Vabbè, chi se ne frega. Io ti chiamo. cerco di mettermi in contatto con te. Che non è facile, perché uno dice dov'è? È in ogni luogo, in ogni posto, in ogni parte, ho capito, ma io non ti guardo. Eh? Vabbè, io ti metto qua, qua su, per convenzione qua. Io ti chiamo perché volevo dirti che non so amare. Non so amare, capisci? Scusami se ti disturbo, ma io sto qua. Cioè, tu mi hai messo qua, qua, in mezzo a tutti questi, capisci? Ma non so amare, io sono qui imbarazzatissima, sì, imbarazzatissima, in mezzo a tutti questi disgraziati che si affannano a chiedermi un bel ti amo. Guarda, mi dispiace, ma io non ce la faccio, non se ne parla proprio, io non ci riesco, io non riesco a mentire, capisci? Io non riesco a mentire, però un modo ci deve essere, eh? Ci deve essere, capisci? Eh? Capisci? Eh? Capisci? Eh? È certo che capisci. È certo che capisci, perché tu capisci tutto. Tu capisci tutto. E infatti ho saltato pie pari tutti i tuoi intermediari. Preti, santi, madonne, via! Quelli pensano di capire tutto, ma capiscono molto di meno. Anzi, certe volte quelli non capiscono proprio niente. Allora io l'ho saltati tutti, pie pari, e vengo dritta da te, direttamente a te, in faccia a te, perché questo per me è un problema enorme. È enorme! E non dire che sono esagerata solo perché di solito lo sono esagerata, eh? Che mica una cosetta da niente. Io non so amare. Causa e effetto di tutto. Pure adesso io mi rivolgo a te. Senza amore. Niente. Mi dispiace. Niente. Però con te è più facile. È certo. Perché io a te non ti vedo. Lo so che se tu ci sei, ora mi stai guardando, ma questo se a me mi rilassa tantissimo. Guarda, io ho avuto un gran senso di colpa per un gran pezzo. Io pure ora, vedi, ti chiamo col magone, io ti chiamo. Io quando sto male, pure con un sé enorme come 50 grattacieli impilati l'uno sull'altro, io ti chiamo nell'incertezza, per non sapere né leggere né scrivere, io ti chiamo, no? È umano, no? Come pure è umano che io non sappia amare, che ne sai? Che ne sai, sì. Come umano fare finta, sì, che fanno finta tutti quanti, o quasi tutti, lo so, anzi, ne sono sicura. Mi si chiudono gli occhi a parlare con te, mi viene sonno. Sonno, noia, sonno, un sonno, una noia, sonno, una noia a parlare di cose tanto già dette, già sapute anche prima di nascere. Ma che palle che sei! Ah, e non ti preoccupare, eh? Io non ti chiederò il perché. Ah no, io no. No, io li detesto quei ragazzini di tutte le età che rinfacciano ai loro genitori d'averli messi al mondo. Ma perché? Ma perché? Ma ve l'ho chiesto io di mettermi al mondo, eh? No, non l'hai chiesto tu ai tuoi genitori, né i tuoi genitori l'hanno chiesto ai loro, né loro ai loro, nessuno l'ha chiesto a nessuno, ma siamo tutti qua, ci mancavi solo tu che rompevi il cazzo con sta solfa. Nessuno sa né come né perché, nessuno lo sa, manco tu lo sai. O fai lo gnorri, eh? Mi senti? Oh! Mi senti? È certo che mi senti. Perché tu senti tutto. Tu tutto senti. Tu hai mille orecchie, hai mille bocche, hai mille cervelli, hai mille noi, hai 100.000 cuori, anzi, mi sa che ce l'hai tutti tu, c'hai tutti i cuori di tutto il mondo, c'hai tutti i cuori, c'hai anche il mio, hai anche, lo vedi, mi sono risposta da sola. O me le hai messe tu queste parole in bocca? Immagino che questa è una tua intuizione, vero? Certo, perché se tu ci sei, fai tutto tu. Ma se fai tutto tu, e dici tutto tu, e decidi tutto tu, allora, a te. Ma che te ne fregava di tirare fuori dal cilindro noi, Per fare il figo, Fatto sta che ce l'hai tu, tutti i cuori di tutto il mondo, c'hai tutti i cuori, c'hai anche il mio, sì, c'hai anche il mio, ecco perché io non so amare, perché il mio cuore ce l'ha Dio! Mi meraviglio che non mi incenerisci quando parlo così. Beh, adesso mi farebbe comodo, sai. Fallo. Ma tu non puoi farmi male. E come fai? Con tutti quei cuori. Con tutti quei cuori. Tu sei buono. Tu sei tanto buono. Tu sei troppo. Buono, sì, sei troppo buono, sì. Anche se t'avviso che i tuoi emissari dicono che poi ci farei scontare tutto quando ti raggiungeremo. Speriamo proprio di no, guarda. Io ho una vera e propria fobia. La relegazione, il carcere. Io ho sempre paura di sbagliare qualcosa e di finire in carcere. Io m'affanno qui per non sbagliare mai niente, per difendermi qui dalla giustizia, quella umana intendo, che poi d'umano non ha proprio niente. E se poi quando arrivo da te tu mi punisci, e mi chiudi dentro una gattabuia celestiale, io t'avverto, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ci mancava pure questa paranoia, ci mancava. No. Oltre a difendermi dalla giustizia umana, mi devo pure stressare per difendermi dalla giustizia divina. Ma allora dove sta quest'amore? Quest'amore che tutti proclamano per bocca tua. Dove sta? Se mi devo sempre difendere. E devo parare colpi e mazzate e malattie e dolore e dolore e dolore e dolore. Dove sta l'amore tuo infinito? Anche solo le briciole di quest'amore. Se qui ci facciamo tutti del male a raffica, ci massacriamo e poi veniamo da te e tre su cinque ci fai male pure tu. Scusa, Qui non c'è tempo. Non c'è tempo per concentrarsi ed esercitarsi ad amare. Tutti impegnati a non fare passi falsi, tutti impegnati a difendersi. Non c'è tempo così, no, scusa, questo è importante, Dio, questo è importante. Tu, Dio, tu su questo ci devi riflettere, questo è importante. Io non dico di contravvenire in toto ai tuoi dettami, no, però fai come hai fatto nella creazione, agisci, d'impulso, agisci, annientali, tutti, chi si permette di infamarti, annientali. Chi ti riduce a uno spauracchio che uno è costretto ad amare solo per scaramanzia, ma non per vero amore, annientali. Chi professa l'odio, annientali. Chi come me non sa amare, annientaci. Siamo pericolosi e inutili, annientaci. Toglici di mezzo, facci sparire senza punizioni, senza dolore. No, non serve, ma facci sparire, per favore, facci sparire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, ma soprattutto annientaci. In fondo, in questo spettacolo circense megagalattico, tu sei il grande mago. Allora fai l'ennesimo numero di prestigio. Toglici di mezzo. Facci sparire. Liberaci. Liberaci da non provare assolutamente, assolutamente niente. È una condanna pure questa, no? Sono melodrammatica? Dimmelo, dimmelo, dimmelo, perché io lo detesto, il vittimismo, fare la patetica, lo detesto. Lo so che ci sono persone che ti disturbano perché hanno dei problemi veri, importanti, perché hanno fame, perché stentano a vivere, ma che devo fare io? Che devo fare? Devo essere contenta e felice perché ho la salute, eh? Per ora almeno. Infatti a me non mi sono ancora caduti i piedi. Come quella là, quella poraccia che ha bestemmiato davanti la Madonna dell'Arco giù a Napoli e boom, gli sono caduti i piedi. Sti trogloditi che li tengono lì imbalsamati come delle reliquie sante, che poi io dico come faranno a cascare i piedi così all'improvviso, boom, dice sono miracoli, esercitazioni di miracoli, che poi questo mi dispiace ma te è venuto proprio male, questo non è mica un miracolo, no, questo Dio non è un miracolo, questa è una cattiveria, sì, è una cattiveria tremenda, Cristo Santo, sì, una cattiveria tremenda, Cristo Santo, apprezza almeno la sincerità, Cristo Santo! Scusa, quello è tuo figlio, e scusa. E poi uno bestemmia. E magari ogni volta che uno bestemmia, a te forse ti si spegne un cuore. E nei secoli sei diventato sempre più cattivo. Sempre più cattivo. Vabbè, adesso io sto zitta, eh? Io sto zitta perché parlo troppo. Io sono logorroica, va bene, sono logorroica. Io sto zitta perché magari tu mi stai parlando, ma io non ti sento perché parlo troppo. Allora io sto zitta e adesso tocca a te. A te, vai. Tocca a te. Che fai? Sei timido, con tutta quella sensibilità, che hai, forse sei omosessuale, con tutta quella sensibilità, forse sei frocio, sì, tu sei frocio, allora noi dobbiamo stare attenti a non discriminarti, a non soffocarti, ma una corona a te non te la toglie nessuno, eh? Tanto a te non ti può togliere niente nessuno, è vero? Hai detto qualcosa? No, perché io oggi ho incontrato quello là. Quel poraccio puzzava, era sporco, mi faceva schifo, sì, e ho pensato che quello eri tu che mi parlavi di sacrificio, di abnegazione, e allora io ho fatto bene, ho fatto bene a non dargli quei quattro spiccetti che c'avevo in tasca, che poi magari tu poi ti offendevi, no? Io, una pupazzetta depressa che faccio l'elemosina a Dio, no? O forse eri quella drogata di merda. Scusa le parolacce, ma è una drogata di merda. Che vuole da me, eh? Perché mi tocca? Perché vuole i miei soldi, eh? Io i miei soldi me li sono guadagnati con sacrificio, con sudore. Mi servono a me. Mi servono a me per rovinare la mia di vita. Per rovinare la mia di vita, capito? Ci sei? Ci sei?